Domani, sabato 9 ottobre, a Grotta Mare, in provincia di Ascoli Piceno, si terrà la seconda assemblea nazionale degli enti locali che praticano il bilancio partecipativo. Dopo l'assemblea dello scorso anno a Piacenza, che ha avuto un notevole successo, quest'anno la provincia di Milano, la provincia di Ascoli Piceno e la rete dei nuovi municipi promuovono questo incontro che vuole fare il punto sull'applicazione di questo metodo di democrazia diretta applicato alle amministrazioni, a cui tutte le forze dei movimenti del nostro paese sono chiamati a partecipare. I risultati relativi alle prime iscrizioni sono di una ottima partecipazione, sono oltre 30 i comuni e una decina le province che parteciperanno in forma ufficiale alla manifestazione, all'incontro. Un incontro che si caratterizza per mettere a confronto le esperienze concrete. Non si parlerà soltanto di idee, ma soprattutto si metterà a confronto modi di amministrare diversi, tutti con l'obiettivo di far partecipare i cittadini. E l'altra cosa importante è che a questo incontro verranno messe a confronto iniziative di buona amministrazione, di amministrazione partecipata, con esperienze di lotte di movimento che hanno messo al centro la partecipazione. Cito due casi tra i tanti: quello di Melfi, che ha prodotto un risultato proprio a partire dalla partecipazione dal referendum svolto tra i lavoratori della Fiat, e quello di Scanzano, dove i cittadini hanno respinto la realizzazione di un deposito di scorie nucleari. Tutte queste esperienze a confronto, soprattutto con i nuovi amministratori, non solo i nuovi rappresentanti delle due province promotrici, Milano ed Ascoli Piceno, che ha una lunga tradizione di partecipazione con Massimo Rossi, nuovo presidente, ma anche il sindaco di Bari, le province di Biella, e quindi una manifestazione colorata anche sul piano politico, e quindi crediamo che da qui, dall'esperienza concreta di governo dei territori, possa venire anche un buon contributo alla definizione di un programma di alternativa di governo nazionale. Insomma, si tratta un po' delle primarie sul programma di cui si sta tanto discutendo per costruire concretamente un'alternativa al governo nazionale che sta tagliando i fondi e quindi toglie spazio all'autonomia e al peso dei territori, che invece sono il vero senso, il vero spirito del rilancio della partecipazione e della possibilità di ricostruire una cittadinanza vera nel nostro paese.